Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Peccato la storia che ci ha portato a questi risultati qua, no? Parla di un futuro, diverso, e parla del futuro per la prima volta, no? Sentite così, quasi che borbotta, e Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, che in modo entusiastico, anche se il tono non sembrerebbe così entusiasta, definisce l'intervento oggi a New York di Matteo Renzi, che ha parlato ancora del lavoro, del Jobs Act, di quello che intende fare. Dice solo con lui si riesce a intravedere il futuro. Marchionne ha detto anche un'altra cosa oggi, ha detto che l'articolo 18, sapete, sul quale divampa la polemica, sta creando disagi sociali e disuguaglianze, questa non è giustizia. Quindi dice che l'articolo 18 crea disuguaglianze e disagi sociali. La pensate così? Come commentereste questa affermazione forte di Marchionne al 349-238-6666, se volete, con i messaggi, questo, oppure c'è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Note. Potete commentare questa notizia, mentre tra l'altro la leader della CGIL Camusso sembra aprire un po' sull'articolo 18, ma solo una questione di tempi, di quando attuarlo. Insomma, sono tantissime le notizie, parleremo anche degli F-35, è vero che viene dimezzato il finanziamento, il budget, insomma, per acquistarli oppure no. Ne parleremo con un esponente del governo. Cominciamo a partire con le notizie. Algeria, l'ISIS decapita l'ostaggio francese. Obama parla all'ONU e dice: non si negozia con il male, ma non è una guerra all'Islam. Lavoro, la CGIL apre sull'articolo 18, pronti a discutere su quando introdurlo. Renzi dice da New York: riforma non rinviabile. Marchionne afferma: lo si lasci lavorare. L'arresto in Vaticano, l'arcivescovo pedofilo rischia fino a 7 anni di carcere. Inchiesta Why Not, De Magistris condannato a 1 anno e 3 mesi. Stop all'obbligo del cognome paterno, sì della Camera. E F-35, via libera della Camera alla mozione sul dimezzamento del budget. Per quanto riguarda il cinema, l'Italia punta al bis per l'Oscar con Il capitale umano di Virzì. E per il calcio, dopo l'anticipo di ieri tra Empoli e Milano, questa sera ci sono ben 8 partite e ci sono anche le azzurre del pallavolo che continuano la loro sfida mondiale. Partiamo quindi da questa nuova esecuzione di un ostaggio da parte degli integralisti islamici dell'ISIS. Questa volta è successo in Algeria. James Foley, Steven Sotloff, David Haynes e ora il francese Hervé Gourdel. In un mese i terroristi dell'ISIS hanno ucciso 4 ostaggi, tutti decapitati. Gourdel era in Algeria come turista e a quanto pare gli estremisti islamici lo hanno rintracciato tramite la sua pagina Facebook, in cui scriveva gli spostamenti. Rapito e mostrato in un primo video in cui, rivolgendosi al presidente Hollande, chiedeva, sotto il ricatto dei suoi rapitori, di cessare i raid aerei in Iraq e in Siria. Un ultimatum di 24 ore, la Francia risponde: non cediamo ai ricatti, e loro uccidono l'ostaggio. Un video di 4 minuti mostra gli ultimi istanti di vita di Gourdel. È la vendetta per l'aggressione francese al califfato, dicono i jihadisti algerini. L'ostaggio torna a rivolgersi a Hollande e lo accusa di aver seguito la linea di Obama, nomina tutti i suoi familiari, poi viene ucciso. È questa l'atrocità di cui ha parlato all'Assemblea dell'ONU il presidente degli Stati Uniti pochi minuti prima che si apprendesse dell'uccisione di Gourdel. Troppo spesso non siamo riusciti a far rispettare le norme internazionali quando è stato scomodo farlo, è stato il j'accuse di Obama. Nessuna guerra contro l'Islam, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti, ma l'ISIS deve essere distrutto. E adesso la coalizione può contare su 40 paesi che appoggiano la linea degli Stati Uniti. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il titolo delle terribili immagini di questa decapitazione da parte dell'ISIS aveva un titolo che è Messaggio di sangue al governo francese, quindi è anche una minaccia, insomma, più o meno diretta al governo francese. Marco Mussanè, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Marco, sono stati 4 gli ostaggi, sentivamo il servizio poco fa, l'ultimo appunto un francese, era soltanto un turista. Quali sono state le reazioni in Francia dal presidente Hollande agli altri? Beh, le reazioni sono di due tipi. C'è la reazione dell'opinione pubblica sotto shock, perché ha scoperto nel modo più brutale possibile di essere in guerra. Nel senso che un conto è vedere la televisione i caccia Rafale che bombardano l'Iraq, sembra quasi un videogioco, altro è assistere all'esecuzione, alla decapitazione di un proprio connazionale andato in Kabilia per turismo brutalmente assassinato dai terroristi. L'altra reazione è quella della classe dirigente, insomma, del governo francese, del presidente Hollande, è quella di respingere nel modo più netto qualsiasi possibilità di cedere al ricatto dell'estremismo islamico e rafforzare invece la determinazione con cui si sta conducendo questa nuova battaglia. Perché l'Olanda mi sembra che abbia ribadito che intendono rimanere con forza dentro la coalizione anti-ISIS, no? Beh sì, d'altronde sarebbe stato impossibile pensare il contrario, certo. È evidente che la Francia non può certo fare un passo indietro a questo punto, quindi è ovvio che i bombardamenti, le missioni dei caccia americani continueranno in Iraq. Ricordiamo che la Francia è per ora l'unico paese occidentale che sta intervenendo militarmente in Iraq al fianco degli americani. Queste operazioni, ha detto Hollande, continueranno con l'obiettivo, come ha peraltro detto il presidente americano all'ONU, di sconfiggere lo Stato islamico. Grazie Marco Mussene da Parigi. Ciao Marco, buona Ciao serata. A voi. Ciao. Ciao. E intanto a New York invece all'ONU ha parlato in una pausa dei lavori il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha dato un plauso alle parole di Obama sull'ISIS e un accenno anche alle polemiche italiane, quelle sul Jobs Act. Marchionne intanto, oltre alle cose che vi dicevo prima, ha anche detto lo si lasci in pace a lavorare, non vedo alternative, però poi per sapere com'è andata la giornata di Renzi così complessivamente poi ci collegheremo direttamente con New York. Gli industriali nel frattempo confermano, gli industriali italiani, la necessità delle riforme, commentando anche il dato positivo diffuso oggi sulla fiducia dei consumatori che è in lieve aumento. Sentiamo allora il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Dobbiamo ricostituire la fiducia da parte dei consumatori perché è fondamentale per ritrovare anche la fiducia degli investitori, che è la cosa più importante, perché qui il paese, se non c'è, sarà la fiducia, se non saremo capaci di ridare la fiducia agli investitori, il paese non riparte. Noi chiediamo che le riforme vengano fatte, lo chiediamo con molta forza già ormai da un po' di tempo e riteniamo che sia fondamentale mettere in mano a tutte le riforme che sono peraltro questo governo ha messo sul tavolo e che devono essere poi effettivamente poi implementate. Un'altra notizia in primo piano, sempre in primo piano da ieri, quella dell'arresto dell'arcivescovo Vesolowski per pedofilia ieri in Vaticano, che rischia 6-7 anni di carcere. Ieri è stato posto agli arresti domiciliari per il rischio di fuga ed inquinamento delle prove. Ma dopo approfondiamo con un vaticanista questo arresto eccezionale, perché dovrebbe essere stato il primo arresto almeno di un prelato in Vaticano. Ci sono delle novità sul contestato programma degli F-35 cacciabombardieri, ma su questo sentiremo tra poco qui Effetto Notte un esponente del governo per capire se davvero ci sarà un dimezzamento della spesa per acquistare gli F-35. Passiamo a Napoli, c'è un'iniziativa particolare, niente tasse per chi denuncia di essere vittima di racket e di usura. La proposta avanzata dal sindaco Luigi De Magistris è stata elaborata dagli assessori della cultura Nino Daniele e dello sviluppo Enrico Panini. Allora sentiamo quest'ultimo, che è stato ospite oggi di Oscar Giannino, la versione di Oscar. Gli imprenditori, gli operatori, i cittadini che hanno attività nel comune di Napoli e che denuncino alle autorità o alle forze dell'ordine di essere vittime di estorsione o di usura, riconosciamo l'esenzione per 3 anni dal pagamento di tutti i tributi e di tutte le tasse comunali. Questo beneficio viene attribuito nel momento in cui viene emessa una sentenza di condanna di primo grado e quindi c'è l'attestazione che la denuncia di questa persona ha prodotto un effetto ed è un primo intervento che noi mettiamo immediatamente in campo per far sì che il maggior numero possibile di donne e di uomini siano messe nelle condizioni di denunciare e nello stesso tempo di avere tutti i pezzi dello Stato solidali e al fianco. Intanto, sempre il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è stato condannato a Roma a 1 anno e 3 mesi di reclusione a conclusione del processo sull'acquisizione di utenze telefoniche di alcuni parlamentari relative al periodo in cui De Magistris era PM a Catanzaro e stessa condanna per il consulente informatico che era Gioacchino Genchi. E passiamo alla morte di Ciro Esposito, ci sono dei nuovi dettagli. Dopo l'arresto del capo ultra del Napoli Gianni Carogna, con conseguente strascico di polemiche, spuntano nuove rivelazioni sulla rissa tra tifosi scoppiata prima della finale di Coppa Italia a Roma lo scorso 3 maggio. Il coltello a serramanico trovato sul luogo degli scontri apparterrebbe al gruppo di tifosi napoletani che prese parte alla prima fase dell'aggressione a Daniele De Santis. Tra loro anche Ciro Esposito, il tifoso partenopeo che in seguito a quegli scontri perse la vita. Sull'arma la sezione di investigazione scientifica dei carabinieri ha individuato tracce ematiche appartenenti al DNA dello stesso De Santis. Ai tifosi del Napoli Ciro Esposito, Alfonso Esposito e Gennaro Fioretti, i PM contestano il concorso in rissa e di avere portato un coltello in un luogo pubblico. I referti medici su De Santis sono discordanti, ma risulta che al carcere di Regina Coeli gli siano state riscontrate medicate ferite da arma da taglio. La principale linea difensiva dei legali di De Santis, accusato di aver ucciso Ciro Esposito, è che il loro assistito sia stato costretto a sparare perché aggredito e ferito. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione per Stefano Bonaccini, candidato alle primarie del centrosinistra, nell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, che lo vede indagato insieme ad altri consiglieri per peculato. Però lui si è detto molto soddisfatto, appunto, perché è stata archiviata la sua posizione e dice pure, appunto, di averla chiarita in un lungo interrogatorio. E poi c'è questa notizia che è arrivata poco fa: stop all'obbligo del cognome paterno. L'Aula della Camera ha approvato la proposta di legge che abolisce l'obbligo del cognome paterno per i figli, lasciando sul tema quindi libertà di scelta ai genitori. Il testo approvato a voto segreto a Montecitorio con 239 sì, 92 no e 69 astenuti, cioè il gruppo del Movimento 5 Stelle, ora passerà al Senato. Il cinema vede la seconda candidatura all'Oscar dopo quella di Sorrentino, di un film italiano che è Il Capitale Umano di Virzì. Poi ne parleremo con il nostro critico cinematografico, capiremo come mai questo film, poi non so se a voi sia piaciuto, sia candidato all'Oscar e quante probabilità ha di poterlo vincere. Non so che probabilità invece ci saranno per le azzurre del mondiale della pallavolo femminile, Dario Ricci, e poi c'è tutto il campionato di Serie A di calcio, un sacco di risultati questa sera, Dario. Sì, stasera diamo i numeri. Partiamo proprio dalle azzurre, che sono in campo contro la Croazia a Roma. Dopo aver sofferto nel primo set, vinto solamente in rimonta 26-24, adesso stiamo andando veramente bene perché abbiamo vinto anche il secondo e siamo in vantaggio 8-4 nel terzo parziale, quindi un'Italia che, superato il primo scoglio, sta mettendo sotto la Croazia e sarebbe la seconda vittoria di fila. Passiamo ai risultati della quarta di Serie A di campionato, Roberta, sì. Siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo, Roma in vantaggio a Parma per 1-0 grazie alla rete di Ljajic al 27esimo, ma anche la Juventus è in vantaggio per 1-0 a Torino sul Cesena, decide in questo caso il rigore di Vidal al 18esimo, il Napoli 2-2 in casa col Palermo, partenopei avanti per 2-0 con Koulibaly e Zapata, poi la rimonta dei rosanero con Belotti e ancora con Vasquez al terzo gol stagionale, 0-0 tra Sampdoria Chievo e Verona-Genoa, ancora 0-0 tra Inter e Atalanta e Fiorentina-Sassuolo, il Torino in vantaggio proprio in questo istante per 2-1 a Cagliari, erano passati avanti i sardi con Cossu, poi la rimonta firmata finora da Glick e Quagliarella. Grazie caro Dario Ricci, poi altri risultati, tutti questi risultati in realtà da aggiornare man mano qui effetto notte. Vedo Fabio che sulla frase di Marchione che ha detto oggi che l'articolo 18 è fonte di disuguaglianze, dice elegantemente, è una stronzata. Poi invece un altro ascoltatore scrive: la Camusso è un residuato bellico del comunismo russo, quindi sono, diciamo, opposti questi messaggi. E invece ce n'è un altro di Gabriele che dice: sono un agricoltore, ascolto Radio 24 tutti i giorni dal trattore, argomento azzeccatissimo, dice: le stalle italiane comprano mais e soia OGM ovviamente, quindi ha ragione Marchionne, tutti i precari, cococoi, gli atipici e il popolo delle partite IVA sono le vittime dell'articolo 18. Insomma, continuate con i vostri commenti se volete al 349-238-6666, questo è il numero per i messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Note. Non lasciate per nessuna ragione il programma, adesso c'è la viabilità, ma ci sono un sacco di altre cose da raccontare. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Stavo guardando le altre notizie, a parte quelle che vi riassumo tra poco. Ce n'è una appena arrivata che riguarda l'ISIS. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, presieduto da Barack Obama, ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede agli stati membri dell'ONU di prevenire e reprimere il reclutamento e il flusso dei combattenti terroristi stranieri. Diciamo, è un po' la palissiana questa cosa, ma effettivamente questo è un atto ufficiale in cui appunto si chiede, siccome il reclutamento sta avvenendo anche negli Stati Uniti, ma anche in Europa, di combattenti che vanno poi ad aggiungersi all'esercito dell'ISIS. E poi invece, per riassumervi le notizie, appunto ritornando su questo argomento, con l'ISIS che decapita l'ostaggio francese in Algeria, Obama dice ai musulmani il mondo si unisca, con il male non si tratta. La CGIL apre sull'articolo 18, pronti a discutere, dice la Camusso, sul numero di anni senza l'articolo 18, però a un certo punto bisogna metterlo, e Renzi da New York dice parliamo ma poi si fa. E poi ancora Via Poma, per la Cassazione non c'è nessuna prova su Busco, motivazioni del proscioglimento in primo grado dicono solo congetture, quindi queste sono le motivazioni della decisione, della sentenza della Cassazione di un po' di mesi fa. A Napoli, 3 anni senza tasse, se si denuncia il pizzo, iniziativa antiusura di De Magistris, è una rivoluzione. Poi per il cinema l'Italia punta al bis per l'Oscar con Il capitale umano di Virzì. Avete sentito anche una notizia che è arrivata in serata, che la Camera ha detto sì per levare l'obbligo del cognome paterno. Adesso il disegno di legge dovrà passare al Senato. Ora, dicevamo quindi che Renzi ha detto diverse cose, naturalmente non, diciamo, è difficile che non dica qualcosa anche dall'estero, dagli Stati Uniti, dove sta viaggiando da 3 giorni. Oggi era ancora a New York per parlare al Council on Foreign Relations, che è un think tank, come lo chiamano, un centro studi di grandissima fama di politica internazionale, e ha parlato ancora delle questioni che riguardano soprattutto l'Italia, della riforma del mercato del lavoro, con un marchionne entusiasta che ha detto è l'unico che ci permette di parlare di futuro. Ma vorrei chiedere direttamente a Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, che è lì a New York, che cosa ha detto oggi, che cosa è successo in questa giornata renziana. Sì, assolutamente. E l'accoglienza che ha avuto è stata molto calda, nonostante il suo inglese un poco zoppicante, sul quale lui stesso ha scherzato, ha detto il mio inglese è terribile, cancellate la registrazione. Però il messaggio che doveva arrivare agli opinion leader del Council on Foreign Relations, e soprattutto dopo, nella colazione di lavoro da Bloomberg, agli investitori delle big corporate, non solo grandi istituzioni finanziarie e banche come Morgan Stanley e Citigroup, ma anche Coca-Cola e IBM, è arrivato lo stesso. Certo, un poco di imbarazzo c'è per chi ha avuto l'occasione di ascoltare, sempre in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in settembre, 3 presidenti del Consiglio diversi italiani nel giro di 3 anni. Però pensavo che l'imbarazzo fosse per l'inglese di Renzi, no? Dicevi perché sono cambiati velocemente 3 presidenti. Però al di là di questo, il messaggio che doveva arrivare è arrivato, ed è un messaggio in cui si guarda al futuro. Renzi, e lo ha sottolineato con grande enfasi il Sergio Marchionne della Fiat, che era seduto in prima fila ad ascoltarlo, è tutto destinato, un messaggio che riguarda il futuro, e dice non è pensabile che ci siano dei momenti in cui ci si ferma, dobbiamo guardare avanti, e così soprattutto sul mercato del lavoro. Lunedì prossimo si riunirà la segreteria del PD, ci incontreremo, decideremo, e poi si deciderà e si andrà avanti, e chi le minoranze quindi eventualmente si dovrà adeguare. Un Renzi quindi decisionista, che è piaciuto agli americani, è piaciuto questi suoi collegamenti con il passato, con il mondo rinascimentale, l'educazione, la formazione, tutti temi legati un po' anche alla sua esperienza di sindaco di Firenze, e lì ha toccato le corde più nascoste e più sensibili di questo raffinato uditorio newyorkese. E domani poi, Gerardo Pelosi, ci colleghiamo, ci racconterà invece che cosa dice all'Assemblea dell'ONU. Intanto grazie Gerardo e buona continuazione. Grazie a voi. Ora ci occupiamo di un tema molto caldo che ha surriscaldato gli animi e continua a farlo anche ultimamente. Vi ricordate le forti polemiche contro gli F-35, i cacciabombardieri di ultima generazione, molto costosi, che l'Italia si è impegnata ad acquistare? Anzi, c'è stato proprio contro il piano di acquisto di F-35, è stata lanciata da tempo una vera e propria campagna di mobilitazione, e diciamo per due motivi principalmente: per questioni etiche, pacifismo insomma, e poi anche soprattutto per questioni economiche, in un momento in cui la crisi economica, finanziaria globale in particolare, colpisce l'Italia è molto pesante. Però sembra che ci sia una novità, perché è passata in aula alla Camera la mozione del PD, cioè la proposta del Partito Democratico, che aveva già ottenuto l'ok dell'esecutivo, che chiede, questa proposta al governo, il riesame del programma relativo ai caccia F-35, puntando sul dimezzamento dell'acquisto, quindi del budget finanziario previsto. E la mozione ha incassato 275 voti favorevoli, 45 contrari, 152 astenuti. Quindi, e coinvolgo qui il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, buonasera. Buonasera. Quindi significa che il governo è già favorevole, questa cosa dovrebbe passare, ci dovrebbe essere questo dimezzamento dell'acquisto. Intanto ci ricorda anche quanti dovrebbero essere, mi pare ci siano in bilancio 12 miliardi per l'acquisto degli F-35. Io credo che il problema vada, oggi in Parlamento ci sia stata un'espressione che di fatto innanzitutto ha dato il via libera al programma degli F-35 in termini di carattere generale, poiché sono state approvate tutte mozioni che tendono evidentemente al riesame del programma, ma non all'annullamento del programma, come invece alcune mozioni richiedevano. Come quella di SEL, per esempio. Esattamente, sì. E questo evidentemente perché questo programma, dobbiamo dirlo anche ai nostri ascoltatori, è un programma che deve andare a sostituire ben 256 aerei tra Tornado, AMX e ACV-8B dell'aeronautica militare, cioè in sostanza l'F-35 è l'aereo del futuro che ci garantisce anche l'interoperabilità con gli alleati e nell'ambito delle missioni internazionali e di un mondo che purtroppo è sempre più conflittuale e meno sicuro. Quindi dicevamo, erano 12 miliardi quelli che l'Italia aveva destinato per l'acquisto, per il programma pluriennale degli F-35, erano già scesi il numero di caccia da acquistare da 131 a 90. E adesso quindi dovrebbero essere 45 se viene dimezzato o no? Guardi, diciamo che questo innanzitutto evidentemente il numero finale relativo agli F-35 innanzitutto non potrà che scaturire una volta terminato il libro bianco della difesa, che come sempre detto anche dal ministro Pinotti è un pochino la condizio sine qua non per poter comprendere quali sono gli obiettivi strategici di questo paese ma soprattutto quali sono i compiti delle forze armate. Dovremmo mettere alla valutazione che uscirà fuori dal libro bianco, dovremmo unire ovviamente queste indicazioni di carattere parlamentare, ricordando che la mozione non indica solamente il dimezzamento del budget finanziario, ma mette in sistema con il dimezzamento del budget finanziario ovviamente anche la ricerca di massimizzare quelli che possono essere i ritorni in termini economici, occupazionali, tecnologici e industriali. Questo proprio perché il programma da un lato ha dei costi, ma dall'altro parte può essere anche una risorsa se riusciremo a operare in certe direzioni. Ricordo che oggi ci sono moltissime ditte, ad esempio italiane, piccole e medie imprese, che hanno anche effettuato investimenti anche relativamente ingenti a seconda delle varie capacità, sia in tecnologia ma anche in formazione, questo assumendo personale e soprattutto specializzandolo in quello che può servire agli sviluppi dell'F-35. E per ultimo, se posso, sì, ricordiamo anche che c'è in atto, è già stata realizzata la FACO di Cameri, che altro non è che uno stabilimento di assemblaggio, ma che nelle intenzioni dovrebbe poi andare a essere un punto di manutenzione e di supporto logistico non solo per gli F-35 italiani, ma anche per tutti quei paesi della regione euro-mediterranea che acquisiranno gli F-35. È evidente che se riusciremo effettivamente a raggiungere questi obiettivi, allora ecco che ci saranno dei ritorni che consentiranno effettivamente una valutazione globale decisamente positiva su questo programma, che oggi è anche nell'ambito di, diciamo, di un qualcosa in progress, ha ricevuto, come è giusto che sia, anche delle critiche e delle esigenze di approfondimento. Quindi Rossi, infatti, è anche una questione di occupazione, mi pare che al momento ci siano 1500 addetti per l'assemblaggio e potrebbero aumentare anche con l'indotto. Diciamo che evidentemente la parte occupazionale è strettamente connessa con le possibilità di assemblaggio future su Cameri e su questa prospettiva di Cameri di poter diventare un polo di supporto logistico per altri paesi europei. Oggi la Fago di Cameri ha delle potenzialità che non si riscontrano in altri paesi, quindi ha tutta la capacità di poter costituire questo polo di carattere europeo. Evidentemente dobbiamo supportarlo. Però per chiudere, sottosegretario Rossi, quindi c'è questa proposta, questa mozione del PD per un dimezzamento, però lei diceva che bisogna aspettare il libro bianco per capire effettivamente qual è il nostro ruolo nella difesa, nel mondo, nella comunità internazionale, quindi per adesso resta una proposta, insomma, bisogna capire poi se effettivamente... Non è una proposta, è chiaramente un'approvazione parlamentare, certo. E una precisa indicazione. Quello che volevo dire è che non c'è una corrispondenza esattamente matematica fra il dimezzamento del budget finanziario e il numero degli aerei. Ho capito, chiarissimo intanto. Grazie sottosegretario Domenico Rossi. Prego, buon lavoro. Grazie a voi e anche agli ascoltatori. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, come tutte le sere dalle 21 alle 22. Stavo leggendo alcuni vostri messaggi di risposta alla dichiarazione di Marchionne, che tra le altre cose oggi ha detto: l'articolo 18 sta creando disagi sociali, disuguaglianze, questa non è giustizia. Allora guardo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Arturo prima Relishan, che dice: mi pare la Palissiano, quindi dà assolutamente ragione, mentre Arturo scrive: la stessa attività principale dei politici italiani, trovare un colpevole su cui scaricare le loro colpe. Ma vi riassumo brevemente le notizie, se prima non l'avete sentite volete riascoltarle attraverso i titoli, e poi parleremo dell'arcivescovo pedofilo. Algeria, ISIS decapita l'ostaggio francese, Obama parla dell'ONU e dice: non si negozia con il male, ma non è una guerra contro l'Islam. Per il lavoro la CGIL apre sull'articolo 18, pronti a discutere su quando introdurlo. Renzi dice però da New York la riforma non è rinviabile e Marchionne dichiara: lo si lasci lavorare. L'arresto in Vaticano, l'arcivescovo pedofilo rischia fino a 7 anni di carcere. E poi l'inchiesta Why Not? De Magistris è stato condannato a 1 anno e 3 mesi. Stop all'obbligo del cognome paterno. Arriva il sì dalla Camera e poi la legge passa al Senato. F-35, via libera della Camera la mozione sul dimezzamento del budget, anche se avete sentito il sottosegretario Rossi che dice prima bisogna aspettare il libro bianco sulla difesa per capire quanto possiamo ridurre la spesa per gli F-35. Per il cinema la candidatura è arrivata all'Oscar come film italiano del Capitale Umano di Virzì, e per il calcio, dopo l'anticipo tra Empoli e Milan di ieri sera, ci sono 8 partite questa sera, man mano ci aggiorniamo, e poi ci sono le azzurre del volley in sfida al mondiale contro la Croazia. Quindi dicevamo dell'arcivescovo Wesolowski, polacco, nunzio apostolico a Santo Domingo, arrestato ieri in Vaticano con l'accusa di abusi sessuali su minori e possesso di materiale pedopornografico, che rischia tra i 6 e i 7 anni. Il processo dovrebbe iniziare negli ultimi mesi di quest'anno o all'inizio dell'anno prossimo, così ha detto il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, che ha anche precisato che gli arresti domiciliari a cui già è stato sottoposto da ieri l'ex arcivescovo sono stati necessari per il pericolo di fuga e per l'inquinamento delle prove. Ne voglio parlare con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao a te Roberta. Di questo arresto davvero eccezionale, mi pare unico nel suo genere all'interno poi del Vaticano. Sì, certo, Carlo. Nella storia perlomeno contemporanea o moderna della Chiesa Cattolica, sì, è la prima volta che accade una cosa del genere. 2 anni fa Circa fu arrestato il maggiordomo del Papa, come ricorderete, però è un laico, sì, diciamo, quindi certo. Anche se aveva una posizione di assoluta importanza, ma diciamo sempre questo è un arcivescovo, nunzio apostolico, quindi un ambasciatore, quindi diciamo nella fascia altissima, stiamo parlando della gerarchia della Chiesa, diciamo, e quindi un personaggio importante, diciamo, anche se la Repubblica Dominicana non è centrale, diciamo, nella geopolitica, però comunque è un arcivescovo, quindi è un fatto straordinario. Questo arresto è arrivato dopo la denuncia di una televisione della Repubblica Dominicana e dopo la sollecitazione a Papa Francesco da parte dell'arcivescovo di Santo Domingo, quindi l'altra autorità, diciamo, ecclesiastica, però il vescovo locale, diciamo, che è un cardinale, che disse al Papa, dice, qui c'è una situazione molto grave. Il Papa lo ha richiamato un anno e mezzo fa, poi, come si sa, lo ha ridotto allo stato laicale, che è la massima punizione, diciamo, non penale che a cui può essere sottoposto un sacerdote anche di alto livello, cioè nel senso lo hanno spretato, se mi usi questo termine, diciamo, che si usa nel linguaggio comune, e questo è avvenuto con un processo anche abbastanza rapido da parte dell'ex Sant'Uffizio, quindi dal dicastero competente. Quanto tempo fa questo, scusa Carlo, è stato richiamato e spretato da Santo Domingo? Allora, richiamato un anno l'estate scorsa, quindi è stato un anno circa a Roma. Questo processo canonico, quindi il processo, diciamo, religioso, è avvenuto durante quest'anno e la decisione è arrivata a fine agosto scorso, quindi è un mese circa che lui ha avuto questo provvedimento contro il quale lui ha fatto ricorso, perché il diritto canonico interno prevede che un sacerdote possa fare ricorso. Quindi ci sarà un secondo grado di giudizio presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, quella che si diceva Ratzinger qualche anno fa, se ci ricordiamo. Lì avverrà. E poi invece il processo penale è un'altra storia, diciamo, personale interno al Vaticano, c'è un tribunale, c'è un codice penale che peraltro ricalca il codice penale italiano, Zanardelli, quello, diciamo, dell'Italia unitaria, diciamo, lo ricalca con aggiornamenti vari che lo stesso Papa Francesco ha apportato. Quindi la questione che spiegava oggi Lombardi, cioè che è stato sottoposto agli arresti preventivi, diciamo, era per gli stessi motivi che accade anche nella legislazione italiana, quindi inquinamento di prove, pericolo di fuga. In questo caso non c'era il pericolo, almeno non è stato ritenuto possibile il pericolo della reiterazione del reato, perché evidentemente si pensa che lui non possa ancora commettere questi reati contro minori in Vaticano, per esempio, ecco. Quindi altre due sono state usate, giusto, perché non ci sono, appunto, ci sono i figli dei dipendenti, sotto controllo che i poveri bambini, ecco, di Santo, diciamo, Domingo che insomma, sono lì per strada, così purtroppo per i bambini di Santo Domingo, sì, visto che c'è veramente un vivaio molto vasto purtroppo di bambini, certo, abbandonati a se stessi, quindi si può approfittare facilmente. Carlo, quindi questo è forse il primo atto davvero forte, esemplare di Papa Francesco, perché tanti arresti potevano avvenire anche molto prima, no? Secondo me, lui sotto questo pontificato alcuni sacerdoti sono stati ridotti allo stato laicale per questi motivi di pedofilia, due o tre se ne ricordo. Che certo non risolve il problema, no? Poi li lasci liberi di continuare a fare. Certo, la Chiesa fa, magari non sono cittadini vaticani questi sacerdoti, sono cittadini di altri paesi. Se un sacerdote italiano, per dire, commette un fatto del genere, è comunque un cittadino italiano, non è il cittadino del Vaticano. La Chiesa fa quello che sa da parte sua, cioè dal punto di vista del diritto canonico. Poi magari può denunciare, ecco, cosa che questo non avviene spesso o non avveniva quasi mai, cioè andare dalla magistratura a dire, un vescovo, per dire, ho saputo che il mio prete sta facendo questo e questo. Questo sappiamo che è avvenuto quasi mai o mai, speriamo che questo accada in futuro, questo è quello che è accaduto. Quindi no, è un atto fortissimo del Papa. Si dice che il Papa, leggendo il dossier, approfondendo il dossier di questo vescovo, fatto anche di recente, si è reso conto della situazione, che era veramente clamorosa, tragicamente grave, e quindi si dice che abbia dato lui l'impulso di questo arresto. C'è chi dice che addirittura l'abbia firmato, ma insomma questo non so se questo è avvenuto, non credo proprio, perché poi la Gendarmeria Vaticana non ha, credo, tutte quelle procedure della polizia italiana, per cui ci sono le firme del magistrato, si viaggia a procedure molto semplificate, il piccolo Stato, tutto è. E poi dimentichiamoci che lo Stato Città del Vaticano, ora detta così sembra quasi, però è una monarchia assoluta, dove il Papa può decidere qualsiasi cosa in qualsiasi momento su qualsiasi materia, quindi poi magari non ordina la condanna quando c'è un processo, però si sa che questo, cioè, tutto rispecchia più o meno la volontà del Papa, quindi l'input generale che arriva da Francesco è di muoversi su questa linea e si sono mossi su questa linea, diciamo, gli uffici a lui sottoposti. E speriamo che continui a usare bene questo potere che gli viene da questa monarchia assoluta. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao Carlo. Ciao, ciao. Europa 24 notte. E passiamo adesso dal Vaticano allo spazio europeo. È stato finito a Torino il vertice informale di due giorni dei ministri della cultura dei 28 paesi dell'Unione Europea riunitosi alla Reggia di Venaria Reale, appunto per parlare di cultura. Tra i temi più importanti c'è quello dell'equiparazione dell'IVA tra ebook e libri cartacei. È vero Silvia Bernardi che l'hai seguito? Ciao Silvia. Certo, ciao Roberta. Giornata di lavoro infatti per i 28 ministri europei della cultura che, come dicevi, si sono congedati dalla Reggia di Venaria nel tardo pomeriggio. Tra le cose più interessanti che sono emerse c'è proprio la questione dell'IVA sui libri elettronici. Il ministro della cultura Franceschini ha portato l'attenzione dei colleghi sulla necessità di considerare i libri elettronici, cioè gli ebook, come quelli cartacei con una tassazione cioè al 4%. Attualmente sono considerati come videogiochi e quindi soggetti ad un IVA del 22%. Se dovesse rimanere questo tipo di tassazione, possiamo immaginare cosa vorrebbe dire per il mondo dell'editoria digitale. Franceschini l'ha definita una scelta miope, noi invece possiamo azzardarci ad usare anche un termine un po' più pesante e dire che questo sarebbe deleterio per tutto quel filone alternativo che sta conquistando sempre più fette di mercato e di lettori. La stessa commissaria europea alla cultura, Andreula Vassiliou, presente anche lei a Venaria, ha ricordato come il digitale sia oggi un tema culturalmente giovane che non può essere assolutamente trascurato. Anche Silvia Costa, che è neopresidente della Commissione Cultura del Parlamento europeo, è tornata sul diritto d'autore e sul tema del copyright. Possiamo quindi dire che il digitale sarà un tema per l'Europa della cultura che sentiremo tornare molto spesso nei prossimi mesi. Aspettiamo allora di riparlarne. Grazie Silvia Bernardi. Certo, grazie Roberta, buon proseguimento, buon lavoro. Ciao Silvia. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Un sacco di notizie anche stasera, avete sentito, e quanti ospiti ancora ce ne sono, ma vi ricordo che insomma tra le principali notizie di oggi c'è una nuova esecuzione purtroppo da parte degli integralisti dell'ISIS in Algeria, un ostaggio francese è stato decapitato, Obama ha detto ai musulmani il mondo si unisca, col male non si tratta. Poi c'è questa apertura della CGIL sull'articolo 18, la Camusso dice siamo pronti a discutere sul numero di anni in cui si può restare senza articolo 18 per poi però introdurlo, e Renzi da New York ha detto sì, parliamone, ma poi si fa. E via Poma, per la Cassazione non c'è nessuna prova su Busco, motivazioni del proscioglimento sono arrivate della sentenza della Cassazione, e per quanto riguarda l'arcivescovo pedofilo arrestato poteva fuggire, ha detto padre Lombardi, portavoce del Vaticano, per questo agli arresti domiciliari rischia 6-7 anni di carcere. Per le partite ci aggiorneremo tra poco, poi avete sentito anche la notizia del sì della Camera contro l'obbligo del cognome paterno, poi la legge passerà al Senato, ma intanto direi di parlare anche di cinema. E vorrei parlare con Franco, il nostro Franco D'Assisti, conduttore qui su Radio 24 il sabato alle 16.05 della Rosa Purpurea. Caro Franco, ciao. Buongiorno, buongiorno, anzi buonasera, ecco, buonasera a te. Al suo fuso, Franco. Ho capito male. È dentro un film, Franco, però il film, non so se è Il capitale umano di Virzivi, che è candidato, oggi è arrivata la notizia, è candidato all'Oscar. Beh, il suo giorno effettivamente, sì, candidato alle nomination, ricordiamo sempre, perché purtroppo certo. Si fa sempre un po' di hai ragione, di prima conto, alle nomination, no, sì. Lo dico perché tante fai volte bene. Il film italiano candidato, allora questo è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar. L'Italia ha scelto il suo film, il suo scudo per poi sperare di arrivare ovviamente in gennaio alla nomination, alla decina di nomination, per prima quella ristretta, poi dopo appunto alla nomination all'Oscar, per rivincere, diciamo così, per il secondo anno di seguito come la grande bellezza la statuetta che appunto è già in mano all'Italia. Facciamo finta che sia un mondiale di calcio, no? la coppa ce l'abbiamo noi per il momento, però ovviamente non sarà facile rifarsi, ecco, non sarà facile ripetersi, perché era troppo bella la grande bellezza, oppure perché questo film, pur essendo apprezzabile, non è all'altezza? Ma no, assolutamente, perché intanto è successo veramente raramente che la stessa nazione abbia vinto due volte di seguito l'Oscar per il miglior film straniero, e quindi c'è chiaramente un ragionamento macro politico nel quale oggi una cinematografia, domani l'altra. Io penso anche, questo è il mio parere personale, che dopo La grande bellezza, che è un film che ha sicuramente poi magari avuto anche qualche critica, qualche detrattore, pochi devo dire, perché per il resto è piaciuto davvero a tutti, ma è un film talmente pregno, talmente importante, talmente denso, talmente grosso, un grosso film, che francamente i film di Paolo Virzì, tra l'altro molto bello, ma anche molto più fruibile in un certo senso per un pubblico sicuramente più ampio, a mio modo di vedere non è nel segno della continuità, ma non sarebbe neanche facile, come dire, dopo un film di Fellini arriva il film ottimo, perfetto, girato molto bene, di un regista che però non ha quella cifra, non ha quel tipo di... Non a caso hai citato Fellini, perché Grande bellezza era un po' su un po' felliniano, no? Ma dico, Paolo Virzì è un autore che io adoro, i suoi film mi piacciono sempre perché trovo che riesca mirabilmente a mettere insieme il livello qualitativo e a far recitare sempre gli attori molto bene, tutti gli attori, con il racconto dell'Italia, dello spaccato dell'Italia per così come la vede lui e per come è adesso. Riesce a farlo con un connubio fra qualità e racconto e sapersi rivolgere al grande pubblico, che è davvero encomiabile. Quindi a me il film è piaciuto molto, sono molto contento. Ricordiamo che ha battuto, diciamo, la concorrenza di Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, che è stato un altro film di cui si è parlato molto durante quest'anno, e anche di Anime Nere di Francesco Muzzi, che è stato presentato a Venezia e che ha un impianto stilistico molto molto forte, tra l'altro è in sala il film, io vi consiglio davvero di andarlo a vedere perché è un film che merita, che racconta il fenomeno dell''Ndrangheta con uno sguardo che parte proprio da quella Calabria che ne è stata patria, ma che adesso l'ha ampiamente esportata in Italia e nel mondo. Però insomma il nostro film, il nostro Scudiero è il film di Virzì, sarà difficile ripetersi, e forse questo ha dato anche alla commissione una certa libertà, cioè anche di poter puntare su un film che sa raccontare anche questo, il disagio, ricordiamo, ambientato in Brianza, sebbene tratto da un libro che lo ambientava originariamente in un paese straniero, però Virzì ha scelto la Brianza come ambientazione di questa storia che, diciamo così, mette insieme quella che è lo stato dell'arte della borghesia odierna con le sue crisi di coscienza e con la relazione e i conti da fare con un paese che forse ha tradito. E noi gli auguriamo comunque buona fortuna, di andare il più in là possibile a Virzì. Grazie Franco D'Assisi, lo sentite sabato come sempre, Franco, la Rosa Purpurea alle 16:05. Non mancheremo, sabato abbiamo come sempre tante interviste che stiamo preparando proprio in queste ore, per cui sorpresa, ci sentiamo alle 16:05. Ciao Franco, grazie. Ciao. E adesso è ora di palleggiare invece con Dario Ricci in tutti i sensi, dalla pallavolo al calcio. Dario, quali sono i risultati? Con i piedi, Roberto. Fai un po' tutto, tanto sei giocoliere tu, via. Beh no, cominciamo dal risultato acquisito, che è quella della pallavolo, delle ragazze che hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 dopo la differenza nel primo set, vinto in rimonta 26-24, poi in scioltezza gli altri due set 25-15 e 25-11, quindi Italia punteggio pieno, due vittorie in due gare, e domani ci tocca l'Argentina. Passiamo però alla Serie A, no Roberta, direi, piatto coi forte. Piedi, quindi dalle mani ai piedi. Esattamente, dalle mani ai piedi, siamo intorno all'ottavo di gioco nel secondo tempo su tutti i campi. Allora, risultati: il Torino in vantaggio per 2-1 a Cagliari, decidono Glick e Quagliarella dopo la rete sarda di Cossu, 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo, Inter in vantaggio sull'Atalanta, Osvaldo al 40° con una splendida mezza rovesciata dopo che Palacio aveva fallito un calcio di rigore. Sul rigore invece il vantaggio della Juventus, che conduce allo Juventus Stadium 1-0 sul Cesena, Vidale il marcatore al 18° dopo due belle parate del portiere Cesenate le ali. Il Napoli 3-2 sul Palermo, partita rocambolesca perché vanno avanti i partenopei per 2-0 con Koulibaly e Zapata al secondo e all'undicesimo, la rimonta rosanero con Belotti e Vasquez, e poi però all'ultimo minuto del primo tempo l'assolo di Callejon. 1-0 anche per la Roma finora a Parma, al 27esimo la rete di Ljajic, 1-0 della Sampdoria sul Chievo, in questo caso il marcatore è Gastaldello, e 1-0 anche per il Genoa a Verona. Decide finora il colpo di testa di Alessandro Matri. Domani Lazio-Udinese, ma insomma intanto la serata calcistica è ancora molto lunga. Eh sì, direi di sì. Grazie Dario Riccio, allora buona continuazione in questa serata calcistica. Noi ci lasciamo a breve per ritrovarci tra pochissimo, ma vedo ancora vari vostri messaggi sia sugli SMS che non riesco più a leggere, ma anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove potete continuare a commentare anche di notte, di giorno, di mattina, a qualsiasi ora. Se volete anche per andare a vedere i commenti degli altri, per esempio di Giorgio che parla della sua esperienza di medico precario. Ci sentiamo tra poco.